si yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. L'ascolto a questa trasmissione in particolare è sconsigliabile al pubblico particolarmente sensibile. Lo dico come premessa scherzosa. Naturalmente più siete sensibili, più vi divertite ad ascoltare questa mattina. Oggi voglio radicalizzare ciò che in sottotraccia viene spesso detto dagli ascoltatori più acidi rispetto a questo programma, che noi amiamo insistere, indulgere, soffermarci, crogiolarci in alcuni e taluni aspetti morbosi, quindi nella loro lettura tutti gli aspetti legati all'apparato sessuale. L'altro giorno un ascoltatore mi ha detto: ah, lei ci mette sempre in mezzo questa cosa. Questa è un'accusa che mi sento fare da decenni. Da quando parlo alla radio c'è sempre qualche sacrestano che si alza e dice: ma tu fai sempre allusioni, parli sempre di quello. Un po' è vero, ma devo giustificarlo se possibile, se ammesso che richieda ciò una giustificazione, nelle mie radici umbro-fescennine, nella terra che mi generò, un po' per il retaggio etrusco, un po' per le transumanze fratesche che nelle mie campagne sì da bambino ero abituato a fare, che lasciano sempre un segno tangibile nelle contadine, ancelle, popolane e signore di buona famiglia che accoglievano i frati cercatori. Abbiamo questa malversata inclinazione a scherzare un po' tanto, un po' sempre, a giocare sempre sulla facezia, sul doppio senso, che è anche una forma altissima di rappresentazione teatrale, un po' perché vuoi che dalle nostre parti si usava sempre appoggiare la fortuna delle messi, le ubertose campagne, il raccolto, il bestiame, sempre a questa sorta di sotterranea deità legata alla fecondità, alla fertilità, all'accoppiamento, perlomeno a tutto ciò che oniricamente accostavamo a questa idea, a questo fantasma allucinato, molte volte più espresso, pensato, immaginato che realmente realizzato. Ecco, dietro tutto questo mio ancestrale pensiero trovo un messaggio mandato questa mattina su Facebook, il più moderno, contemporaneo, efficace sistema di immediata correlazione tra pensieri di persone anche a distanza tra loro, dove un ascoltatore la commento della mia riga di status che annunciava la trasmissione di oggi, lo dico oggi, la sessualità degli italiani, così almeno non vi annoiate. Avevo scritto, dice: in Italia c'è molto sesso orale. Cominciava il batticuore da parte del pubblico sensibile, dice, ma nel senso che se ne parla troppo rispetto alla pratica. E questo già mi sembra un buon punto di partenza. Perché oggi vorrei parlare di sessualità degli italiani? Perché è stato recentemente presentato uno studio molto attento, capillare. Ogni tanto qualcuno si prende l'impegno di attraversare il nostro paese anche con questo occhio apparentemente indiscreto ma efficace. E da una parte abbiamo questa ormai estrapolazione, rappresentazione estrema che vorrebbe gli italiani come dei compulsivi sessuali. Questa mattina leggo i giornali, gli ultimi aggiornamenti su questa nuova tangentopoli sessuale che attraversa il paese, parla di banche dati, di 350 escort a disposizione degli imprenditori per oliare, fortificare e fluidificare i loro rapporti. Si leggono queste intercettazioni al di là di ogni lettura politica, è giusto, non è giusto, etico, non è etico, ma se questa gente compulsa, mandamene due, mandamene quattro, le voglio così, le voglio cosà, questa non valeva niente, questa vuole 1500 euro, poi altre 1500 la stanza, però sono bellissime, ma anche mandami maschi. Se recentemente letto del corista vaticano che smistava baldi ragazzoni, insomma sembra che gli italiani abbiano un'attività fortissima, chissà se poi è veramente così. Sono tra quelli di una, due al mese. Dopo 30 anni con la stessa donna, capirete. Purtroppo non mi trovo d'accordo per quanto riguarda una volta a settimana, perché le donne hanno spesso il mal di testa e non si trovano più queste donne che amano l'altra parte del sesso. Sì, una volta al mese sicuro, questa è la media, perché sposato, non di più, impossibile. Ma chi è che decide quante volte alla settimana o al mese uno deve fare l'amore? Ma saranno c***i nostri. Ma io dico, ma perché bisogna entrare nella casa delle persone e andare a rompere giù ma insomma, se uno lo vuole fare una volta all'anno, una volta all'ora, sono nostri, e che palle. Ecco, io costellerò questa mattinata in cui avremo il parere e il racconto delle persone che hanno fatto questa inchiesta sulla sessualità degli italiani, che poi è stata raccolta in un libro, appunto La sessualità degli italiani, edizione Il Mulino Contemporanea, scritto da Marzo Barbagli, Giampiero Dalla Zuanna e Franco Garelli, che sono rispettivamente un sociologo, un demografo, un altro sociologo, Garelli, che hanno analizzato un campione di 7.000 soggetti tra 18 e 70 anni, in cui vedremo poi qual è la percezione, la realtà, o perlomeno il racconto che fanno, naturalmente quando si intervistano delle persone, soprattutto gli italiani, su aspetti così intimi, le reazioni sono sempre a volte molto mediate dallo status che bisogna esibire. Ma in realtà anche questi messaggi che abbiamo preso e selezionato alla nostra segreteria telefonica, che è un po' come un confessionale, dove ogni giorno arrivano decine e decine di messaggi, a volte congrui e pertinenti alla trasmissione che stiamo facendo, a volte di tutt'altro argomento. Siamo andati a pescare quelli che sembrano più vicini alla percezione di una sorta di desiderio di raccontare o di non raccontare o di reagire a qualcuno che pretende un racconto rispetto alla propria vita intima. 800 24 00 24. Io sto con un ragazzo bellissimo da 4 anni, siamo giovani e facciamo tantissimo all'amore, più di una volta a settimana naturalmente. E tutto il mio erotismo, io ho avuto la fortuna di, come dire, volgerlo verso di lui e poterlo completamente appagare. Fatale media, direi che una volta alla settimana mi pare assai poco. Buongiorno, io sono Ornella, 46 anni, un compagno più giovane da 7 anni e alzo la media perché lo faccio di media una volta al giorno, se non due. Ecco, io ricordo che queste erano le reazioni a una vecchia trasmissione di Melog dove parlavamo di frequenze di incontri sessuali, una maniera per giocare, per scherzarci sempre, per il nostro approccio era quello della facezia, però rispondevano con grande attenzione. Ecco, io vorrei prendere subito spunto da questa prima sventagliata di messaggi, sentire subito uno degli ospiti che ho al telefono, che è tra gli autori del libro. Giampiero Dalla Zuanna, buongiorno. Buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori. È il demografo, insegna demografia all'Università di Padova, ha scritto altri libri per Il Mulino, tra cui Nuovi Italiani, e ha partecipato a questo tipo di inchiesta. Ecco, innanzitutto, come vi siete comportati nei confronti del campione prescelto? Come avete prescelto gli italiani tipo che dovrebbero essere i testimonial della nostra percezione, attività e frequentazione degli apparati sessuali o delle fantasie sessuali? Il libro è basato su due grandi campioni. Uno è un campione appunto di 7.000 persone che sono state scelte con i criteri del calcolo probabilità della statistica per essere rappresentativi di tutti gli italiani fra 18 e 70 anni. Quindi ci siamo tutti dentro, non possiamo tirarcene fuori. Diciamo così, ecco, le persone sono state intervistate faccia a faccia, ma la parte di domande più intime le hanno compilate mediante un questionario autocompilato. Per essere sicuri che la gente... sicuri, insomma, ragionevolmente sicuri che quello che ci raccontavano era vicino ai comportamenti effettivi, abbiamo fatto anche un'indagine di confronto telefonica per vedere appunto le differenze nelle risposte. Vi faccio solo un caso che è molto interessante, alla domanda sull'attrazione omosessuale, mediante il questionario autocompilato, il 6% della gente ha detto di aver avuto esperienze nella vita di questo tipo, nel questionario telefonico solo il 3%. Quindi questi tipi di risposte sono abbastanza sensibili rispetto allo strumento che si usa e possiamo dire che in Italia il questionario autocompilato si è rivelato particolarmente efficace per questo tipo di ricerca. Per cui alcune osservazioni che sono state fatte sull'indagine, no, del tipo la gente racconta quello che vuole, non raccontate, non si sente la verità. Chiaro che su queste cose è diverso chiedere a un agente quanti anni ha oppure se nella sua vita ha avuto rapporti di un certo tipo, eccetera, naturalmente. Però possiamo dire che io credo che ci siamo avvicinati abbastanza alla rilevazione del comportamento effettivo, che era il primo obiettivo di questa ricerca. Ecco, io vorrei invece anche presentare un secondo ospite, che è il professor Franco Garelli. Professor Garelli, buongiorno. Buongiorno. Docente di sociologia della religione all'Università di Torino, coautore della Sessualità degli Italiani, di questo libro appunto. Ecco, la domanda che faccio a lei invece, professor Garelli, è, io ho citato una semplicissima citazione ai giornali questa mattina, ma sono mesi che a leggere le cronache perlomeno sembra che gli italiani siano immandrilliti in una maniera stratosferica. Ma corrisponde realmente quello che avete visto nella vostra ricerca a questa sorta di frenesia, a questa satiriasi dichiarata perlomeno dalle intercettazioni dei giornali, dei grandi casi legati alle vicende di politica, economia, affari, malaffari e sessualità? Ma può darsi che sia un po' una conseguenza, no, di chi detiene il potere o comunque esercita altri incarichi stressanti, per cui poi deve un po' scaricare o contorniarsi, ecco, di questa situazione. O fa parte di uno status necessario a sentirsi uomo di potere? Sì, ho l'impressione, perché lei l'ha in modo molto, molto ben rappresentato, no? Questa tangentopoli sessuale. No? È un anno che non si parla d'altro, sembra che sì, in realtà sì. Se realmente fosse così saremmo circondati da persone allegrissime, simpatiche, divertenti, in realtà sono tutti poi molto torvi, sempre arrabbiati. Ma difatti, no, questa idea di dover lubrificare col sesso anche gli affari, insomma, no, mi sembra che ormai appare a livello di immaginario collettivo una componente essenziale. Ma io qui, noi abbiamo analizzato, come diceva già prima il collega amico della zona, abbiamo analizzato un campione di popolazione, quindi non sono le punte, ecco, né in un senso né nell'altro, è l'insieme della popolazione che emerge con le sue caratteristiche di fondo. Ecco, se dovesse sintetizzare la novità rispetto a precedenti analisi sugli italiani che ormai risalgono a qualche decennio fa, qual è il punto di novità? Ma direi la novità più forte è comunque una grande sperimentazione, ecco, sessuale. Quindi non è che gli italiani si tirino indietro, anzi. Però ecco, viene fatta ad alcune condizioni, no? Cioè sono andati oltre al missionario, per dirlo in termini sì, molto brutali. No, decisamente. Cioè, ovviamente sono gruppi diversi di popolazione, diciamo, la tendenza di fondo è alla sperimentazione. Poi c'è chi sperimenta di più in condizioni sicure, con i rapporti consolidati, e chi invece tende a sperimentare un po' a tutto campo. Questi sono un po' i due elementi, e c'è anche, direi, però un approccio naturale alla sessualità, ecco, non particolarmente cragnosa, no? Cioè, ma fatta appunto di quotidianità o fatta di una dimensione che davvero prende l'esistenza. Ecco, sentiamo subito un'ascoltatrice, Filomena. Sì, buongiorno. Non è male sentire anche il lessico utilizzato dall'esperto. Un grosso affare, e tutti pensano all'affare. Lubrificare gli affari, non sì. Non è male. Io non ho voluto sottolineare, ma mi piace che lei l'ha notato. E poi gli italiani non si tirano indietro, anche questa non è male. Vedo che appunto nel lessico... Quindi hanno cominciato a usare sistemi di controllo più efficaci, questo no, i due mondi, cioè i mondi comunicano e si travasano, si infettano e si sanificano a vicenda, insomma, nel senso che ormai questa non la mando giù, per esempio, subito si ride perché si pensa a una fellazio, non so, completa, per esempio, no, tutta questa cosa qui. Comunque il mio intervento era mirato alla... No, mi piace capire che il mio accenno al doppio senso fascinino è divertente. No. Ma io, guardi, le dico, le mie radici umbre, che è una terra radicalmente laica e fortemente intrisa anche di senso religioso, mi portano ad avere questo approccio nei confronti della sessualità, un approccio divertente, è lo scherzo che si fa in famiglia, il doppio senso che ti senti fare anche dai tuoi genitori, è questo, poi questa è la mia lettura, non è che detto che debba essere quella di tutti. No, se si è attenti da un aspetto, dice, dal punto di vista linguistico, ecco, già vedi che ci sono già caduto anch'io con la linguistica. Vabbè, da un punto di vista, diciamo, del lessico, è chiaro che i due mondi comunicano, travasano, tant'è che appunto il mio intervento era proprio sul discorso della pubblicità. Allora uno deve prendersi i registri Buffetti e naturalmente cosa dice quella là? no, allude sessualmente. Vabbè, evidentemente fa vendere di quell'altra, più. Quell'altra, io vado al risultato e con questa voce suadente come se si fosse appena levata da un letto caldo e quindi... Beh, questo fa vendere più merce. Certo, ma è allusivo continuamente una sollecitazione. Ma lei si scandalizza di questo, scusi, ha fatto doppi sensi sulla lingua fino adesso? No, assolutamente, io non mi scandalizzo, io semplicemente dico che quando si parla di sesso tutti sono pronti a ridere. Se si dice i politici sono ladri, la gente ancora qualcuno ma lei è convinta, si indigna. Invece quando dice quello se ne portate, se ne fatte, se ne dette, oh, c'è tutto come un risolino, toccarsi dentro, come dire, ci siamo capiti, questo è uno che quindi c'è una sorta di complicità generale nei confronti delle consumazioni eccelse, questo vuol dire, perché c'è il sorriso. Il sesso fa ridere in generale, come cioè quando fa ridere vuol dire che non ci sono problemi, quando comincia a destare cupezza probabilmente c'è un rapporto drammatico, ecco, è anche una cosa. Concordo sul fatto del mandrillismo, a sentire, a vedere televisione, leggere giornali, sembra che la gente continuamente copuli dalla mattina alla sera, invece diciamo poi la verità anche dai dati che lei può raccogliere, insomma. Ma parli anche per quello che lei sa della io vita. Io parlo per me, sì. Certamente. Io sono una donna di sana e robusta costituzione, come si dice nel gergo burocratico quando si viene assunti nello Stato, anche spigliata, come vogliamo dire, com'è? Ma? Senta, una o due volte al mese proprio, eppure sono, cioè, mi ritengo normale, ma le assicuro. Sì, no, adesso non voglio entrare nello specifico, sì. Ma ha una regolare compagnia accanto? Come no, un marito simpatico. E due volte al mese la media? Ma sì, guardi, le assicuro, cioè, ma perché è normale, io nella nostra... Ecco, uno dei miei due ospiti, può dire se Filomena si trova nella media italiana, dalla Zuanna magari? Ma, due volte al mese in un rapporto coniugale? Se mi dice l'età... Età, signora, dire... Filomena? 50, una magnifica 50. 50? Cos'è due volte al mese? No, è un pochino più bassa, non di tanto, ma un pochino più bassa. Qual è la media italiana, media? Beh, diciamo, su quell'età là, sui 50, eccetera, siamo circa 2-3 volte al mese, ecco. Addirittura? Allora, devo preoccupare. Sì, qualcuno stappi champagne a questi numeri, devo dire. Cosa? Che... No, dico, spero che qualcuno stappi champagne ascoltando questa trasmissione. Beh, io immagino di sì, ecco, bisogna anche dire una cosa però che... anche su queste cose. La cosa interessante è che se associamo questa domanda alla richiesta sulla soddisfazione, di solito si vede che c'è anche un'espressione di soddisfazione, cioè l'impressione è che la frequenza dei rapporti, specialmente all'interno delle coppie coniugate o in ogni caso delle coppie diciamo stabili, alla fine è frutto di una negoziazione che porta a un orientamento diciamo comune, ecco, per cui... Negoziazione nel senso... Non enfatizzerei troppo questo aspetto, ecco, anche perché... Io rientro presto la sera se tu poi in cambio così, cose del genere. Ecco, direi che è così. Ecco. Io porto fuori i bambini, però dopo magari, così. Sì, ci sono negoziazioni appunto che... Ecco, semmai è... Non è un mercimonio, è un normale scambio di favori, diciamo. Anche questo, un pochino, sì. Anche, come si dice, c'è sempre un po' un miscuglio fra amore e tornaconto su queste cose, no? Perché fa parte della vita, come dicevate voi prima. Ma le cose bisogna guadagnarsele, mica uno ce l'ha così. Direi che è proprio così. 800 24 00 24. Sentite anche voi quello che vi dice la vostra esperienza e raccontatecelo se possibile. Ho una riflessione in merito. Ho una coppia di amici che mi hanno confessato... hanno rapporti diciamo sessuali, fanno all'amore solamente negli ultimi anni, solamente durante guardando le puntate del Grande Fratello. Cosa mi puoi dire al riguardo? Devo dire che lo fanno solamente lunedì sera, è abbastanza triste, ma lo fanno la sera della puntata del Grande Fratello. Melog 2.0. Io ho avuto un'esperienza con una donna che malgrado mi amasse e non aveva l'orgasmo perché solo con i clitoride. Lei capisce perché la natura è fatta così. Sono uno psicologo e l'85-90% di persone che si rivolgono allo psicologo è dovuto alla sfera sessuale, quindi ha problemi alla sfera sessuale, quindi non capisco tanta ipocrisia sul fatto di parlare del sesso. 800 24 00 24. Oggi parliamo della sessualità degli italiani, dei punti di vista. Questo ascoltatore ha scoperto che le donne hanno il clitoride. Il clitoide è un accessorio metabolico, paranormale, ipertecnologico, non so bene cosa sia. Lui l'ha scoperto e quindi merita senz'altro una nota di applauso. Tanti altri stanno scrivendo, molti sottolineando che il fatto, dice soprattutto un ascoltatore su Facebook, a 30-35 anni la vita è finita. Dice, cosa sentite fare le persone di 50 anni? Dice, è impossibile, a 50 anni non si fa più niente. Uno che fa? Dice, si toglie il catetere e poi dice faccio sesso. Ma ha un'idea un po' vaga di quello che può accadere dopo 50 anni. Io gli auguro di arrivarci sano, ma non è assolutamente così. Lo scopo e il fulcro della nostra trasmissione è un libro da poco uscito per il Mulino Contemporanea, La sessualità degli italiani, che è un'indagine su un campione di 7.000 soggetti tra i 18 e 70 anni, scritto da Marzio Barbagli, Giampiero Dalla Zuanna e Franco Garelli. Franco Garelli, che è ancora in linea. Franco Garelli, buongiorno, siamo ancora in linea? Sì, è un sociologo dell'Università di Torino. Vorrei, se possibile, dare qualche piccola indicazione, proprio banalmente numerica, prima di sentire gli ascoltatori che abbiamo già in ascolto. Mediamente qual è il numero dei partner che un italiano ha nel corso della sua vita attiva? Ma sull'insieme della popolazione sono 3 o 4, però poi ci sono... In tutta la vita? Sì, però poi ci sono delle quote più ridotte di popolazione che ne hanno anche più di 10, insomma, quindi dipende, è proprio un fenomeno molto variegato. Quindi diciamo che le punte massime medie sono 10 e le punte minime sono 3-4? O sì. C'è anche qualcuno che ne ha uno solo e rimane sempre sì, quello? No, c'è anche una quota di popolazione che ne ha uno solo, ecco, ne ha avuto uno con cui ha iniziato la sua vita affettiva. Come era una volta, uno si sposava sì. e teneva quello fino alla fine, sì. Fine dei suoi giorni. Sì, ecco. Però oggi ecco, c'è anche questa dimensione di sperimentazione che la media è quella che abbiamo detto, però appunto ci sono quote di gente che sperimenta molto di più in questo campo e quindi può avere anche più di 10 partner. Ma sperimentare sempre con la stessa persona vale come due o sempre vale come uno? Sempre come uno? Vale, vai sempre uno, quindi non si può barare. Franca, buongiorno. Buongiorno. Parli pure senza titubanza. Immagini che davanti a un medico allora, o un confessore, decida lei. Io ho 65 anni, mio marito ne ha 68. Siamo 44 anni che siamo sposati e sinceramente lo facciamo 2 volte alla settimana, ma con soddisfazione. Che c'è stato un periodo 2/3, che... vedo, leggo dalla scheda addirittura. Come? 2/3. Sì. E ultimamente io ho avuto dei problemi e quel rapporto, diciamo quei 2 o 3 rapporti settimanali mi hanno risollevato molto il morale, perché sapevo che mio marito mi voleva bene e era soddisfatto di me. Sinceramente mi sembra assurdo che quelli che dicono che non lo fanno. Però sa che è una cosa abbastanza soggettiva, dipende dalle persone, dagli stati d'animo, dal rapporto, dall'ambiente, l'habitat, la vita quotidiana. È un po' difficile generalizzare. Lei adesso sta sbattendo in faccia a queste povere ascoltatori e ascoltatrici che meschinelli con la loro volta mensile si sentono un po' miserelli nei confronti dello splendore delle sue 3 volte settimanali a 60 anni. Quindi abbia la modestia di non proclamare troppo la sua gioia, anche se la condividiamo. Parlando anche con delle mie amiche, sì. non sono un'eccezione. Ma qual è l'attitudine del nostro paese abitate? Vuoi pensare all'acqua, l'aria? Perché... Non lo so, noi siamo a Verona. A Verona? Verona sì, è una città, sarà per Romeo e Giulietta, per la mistica città dell'amore, che evidentemente c'è un'attività frenetica, questo mi fa molto piacere. Guardi, come ripeto, mi sono meravigliata se io lo dicessi a mio marito, che tante volte si lamenta perché... quella settimana lì invece di farne 2 o 3 ne fa uno solo. Ma perché cosa c'avete un calendario, ci mettete le crocette sopra, come fate? No. Quali sono i giorni adeguati, diciamo, all'accoppiamento? Non c'è una giornata, dipende da come ci guardiamo. Qui possono essere 3 giorni in fila oppure che ne so, i giorni dispari e i giorni pari. Sì, non ci sono problemi. E da cos'è che dà l'estro? Tante volte ci guardiamo in faccia e spegniamo il gas e chiudiamo la porta. Spegnete il gas, perché sennò tenete il gas acceso di solito. No, perché se magari stiamo facendo da mangiare, cioè non è che ci bisogna farlo la sera, la mattina. Allora dice, chiudi il gas e vieni via, dice suo marito, è così. Sì. Quindi accade mentre lei cucina in questo momento. Quindi accade anche in momenti rituali rispetto all'ora canonica dell'accoppiamento coniugale. Sì. Mattina, sera, pomeriggio. Non ci sono problemi. Ah bene, ecco, lo dico per far aumentare l'invidia dei nostri ascoltatori. 800240024, vediamo chi avrà l'ardire di contrapporre all'esperienza di Franca altre esperienze, spero altrettanto gratificanti. Domenico. Pronto? Eccoci qua. Sì. Anche lei sulla media dice che è bassa la media. A me mi fa paura la media che state dicendo per radio. No, non sto dicendo, l'ha detto un'ascoltatrice. Abbiamo dato due testimonianze. No, ascolti, la media bassa parlavo io. Perché io ho 59 anni. Sì. C'ho una compagna di 51 anni e per me è minimo tre volte, quattro volte la settimana. Adesso non si allarghi, tre. Una media di due volte al mese, un cinquantenne, mi fa paura. Però sa, qualcuno ha dei problemi magari, mica tutti. Il problema lo può avere uno, due, ma per me tutti i giorni è sacro. Anche le dico una cosa. No, adesso tutti i giorni non spari, tutti i giorni mi sembra un po' esagerato. No, non è esagerato, guardi. No, ma è esagerato, se io posso tutti i giorni se c'è tempo. Ah, però mi sembra una. Quindi l'estro ci sarebbe comunque, dipende solo dal tempo. Sì. Ma lei sta parlando senza entrare nei particolari, sempre con la stessa persona o variando sì, i partner? Io sono sposato con mia moglie quindi, da 35 anni. Quindi una sana attività monogama. Io le dico che per me è sacro tutti i giorni, ma però è troppo basso, una media è una cosa, sentire una cosa del genere due volte al mese. Sì, sono quelle cose che fanno male, lo so, in effetti, però lei capisca che succede anche questo nell'umanità travagliata. 800240024, siamo arrivati a tutti i giorni, quindi difficile abbattere questo record, ma chi avesse modo, con prove testimoniali chiaramente, di andare oltre quello che dice il nostro ascoltatore, chiami 800240024. Io penso che la poligamia sia giusta, però da vivere tutti quanti nella stessa casa, no uno da una parte o un'altra, di vivere con le mogli tutti insieme. Io non avrei nessun problema a soddisfarle tutte, anche tre per notte, sono sereno e mi piacerebbe anzi poter avere la possibilità di avere più mogli. Tre mogli definite come satanate, credo che faccia tremare le gambe a qualunque uomo. Questa forma di aggregazione, un uomo con più donne, eppure una donna con più uomini, esiste già, ma nei film porno. Professor Franco Garelli, su questa fantasia degli italiani, lei ha detto che ha notato come dato emergente una voglia di sperimentazione all'interno della coppia, quindi le coppie hanno deciso che esiste anche questa possibilità di stare assieme meglio, di dare più senso alla propria vita di relazione, via dicendo. Ma questa allucinazione in realtà della poligamia consentita, cioè che gli uomini vorrebbero sì sperimentare anche di fuori del focolare domestico, poi vorrebbero la complicità o l'assenso o il beneplacito della moglie, perché così gli si chiude un cerchio di coscienza che stia a posto. Questo esce dalle vostre ricerche? No, questo no, nel senso che non abbiamo posto delle domande su questo tema particolare, e però emerge. Cioè l'uscita dal sacro recinto, ecco, questa è la domanda. Oltre quello che si fa nell'ambito della coppia proclamata, le uscite e rientri, o le uscite senza rientro, o i rientri senza uscita, fanno parte, diciamo, delle pratiche consuete medie degli italiani? Beh, c'è indubbiamente, come dicevo, una quota di popolazione che sperimenta in modo ampio. Poi ci sono tutte le fantasie sessuali, ecco, che è un campo di una certa rilevanza, ma anche qui diciamo che interessa in modo forte una minoranza, anche se consistente, di popolazione. Poi c'è il fenomeno del tradimento, ecco, rispetto al quale ci sono anche dei dati interessanti, perché circa il 20% del nostro campione dichiara, appunto, quindi in condizione di coppia, dichiara di aver tradito il proprio partner, e quasi il 40% dichiara di poter avere dei dubbi che il proprio partner l'abbia tradito. Insomma, c'è una realtà in movimento, ecco. Una realtà in movimento. Siamo Fabrizio, cosa ne dice? Fabrizio, c'è una realtà in movimento dalle parti di casa sua? Fabrizio? Pronto? Fabrizio? Pronto? Eccolo, sì, lo sto ascoltando, le ho fatto una domanda. Sì, ma non, io sono stato messo appena in linea. Ecco, volevo sapere se c'è una realtà di movimento, come dice il professor Garelli, cioè... No, io volevo veramente... volevo intervenire, non sono stato preso in considerazione per niente. E come no? La sto chiamando adesso. Niente, io volevo dire la mia esperienza, volevo un consiglio al professore. Vediamo. Niente, in pratica fino a qualche tempo fa avevo una vita sessuale piuttosto attiva con mia moglie, solo che da un anno a sta parte la compagna ha avuto una grossa crisi depressiva e quindi diciamo che non lo possiamo fare più con la stessa frequenza. Ma anche soprattutto... lei la sento un po' giù comunque. E guardi, questo è più che altro un consiglio che potrebbe dargli Nicoletta Carbone, la trasmissione viene proprio di me, che ha dei clinici. Noi, il professor Garelli è un sociologo, non può darle risposte, è un suo caso personale doloroso, che probabilmente se chiama Nicoletta Carbone dopo farà senz'altro le darà delle indicazioni per vedere se qualcuno può aiutarla nel suo problema. Piero? Che fortissima, Sono qua. Sì, c'era anche una donna in sottovolto. Pronto, Piero? Buongiorno. Era lei che aveva una donna accanto? Sentivo una voce femminile. Non ce l'ho. Allora c'aveva Fabrizio, era la moglie depressa che parlava. Prego, dica Piero, qual è il suo problema? Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Allora, io volevo soltanto dire questo. Io ho notato che ci sono delle donne che la distinzione è tra quanto vogliono essere possedute e quelle che non lo vogliono essere. E lo dico subito. Io ho avuto una relazione con una donna più grande di me, poco più grande di me, e lei era assolutamente lusingata dal mio desiderio. E quanto io la desideravo, più lei mi si concedeva ed era una donna che voleva essere posseduta, sì. e le piaceva questa cosa. E l'altra donna che ha avuto nella vita? E lei, invece la donna che ho attualmente, essendo forse più bella e quindi anche ha un atteggiamento nei confronti degli uomini diverso. Se la tira di più. No, non se la tira di più. E non le piace l'idea di essere posseduta. Cioè, se io le dico tu sei mia, con questa donna io ci vivo e ci farò, spero, tutta la vita. Lei dice no, tu non sono tua, io sono mia. Mentre la donna di prima era contenta. E allora poteva tenersi quella di prima, perché ha preso questa idea. No, io sono felicissimo di questo. Però quello che volevo dire. E allora dire si porti tranquillamente la sua felicità fino alla fine dei suoi giorni. È il gioco che c'è fra voi per rimanere assieme. Lei che scappa e lei che la insegue. Mi sembra molto brava questa donna, ha trovato il suo punto debole, quindi lo mette perfettamente a fuoco. Melog 2.0. Prima ho provato la coppia aperta, per cui tu fai quello che vuoi, io faccio quello che voglio, eccetera, eccetera. E secondo me è una situazione troppo stressante, perché la gelosia è sempre lì. Poi ho provato la situazione in cui, insomma, io ero il passivo e lei faceva quello che voleva, però per un uomo è pesante. Ho provato anche la situazione contraria. Adesso sto provando una situazione per cui, avendo un figlio piccolo, a me praticamente non interessa assolutamente nulla di quello che fa lei. E devo dire che forse la soluzione migliore è quella tipo l'ultimo bacio, cioè a un certo punto della vita si cambia ruolo, per cui la donna che prima era passiva, che prima sopportava tutto, poi diventa la parte attiva. Quello che posso semplicemente riferire come osservazione di questa trasmissione è che abbiamo iniziato parlando di un rapporto scientificamente corroborato dalla serietà degli analizzatori e degli osservatori sulla sessualità degli italiani, che era un rapporto molto complesso, che entrava nelle fattispecie dei gusti, delle preferenze, delle attese, dei desideri. Ci siamo ridotti a una sorta di gioco al rilancio su chi lo fa più volte al mese, a settimana, al giorno, all'anno con la propria moglie. Quindi, se volessi fare un'osservazione, alla fine la sessualità diventa, almeno nella percezione di quello che vedo del pubblico che in questo momento è in linea per telefonare, diventa una conferma, una percezione della propria capacità di sostenere, come se fosse un'attività ginnica, un'attività di timbrare un cartellino per una quotidiana professione, di mantenere vivo il ritmo del cosiddetto debito coniugale. Ma io probabilmente, forse è una mia lettura distorta, per sessualità intendo qualcosa di molto più ampio, di molto più vasto. Intendo fantasie, intendo pensieri, intendo condivisioni, intendo respiri, intendo profumi nell'aria, intendo ricerche, intendo sguardi clandestini, intendo promesse, intendo raccapriccianti scoperte, intendo qualcosa di molto più articolato e molto più vasto, che mi sembra singolare che non appartenga all'esperienza dei miei ascoltatori, che alla fine mantengono il minimo comune sindacale. Lo faccio, quindi sono una persona a posto, clinicamente, eticamente, sostanzialmente a posto, lo faccio con la moglie, lo faccio con l'amica, con la fidanzata o col marito, col fidanzato, quindi sono anche socialmente accettabili. Beh, vediamo se riusciamo a scavare un po' oltre questa accettabilità sociale. Sentiamo Marianna. Marianna. Sì, io vi parlo, grazie per questa opportunità prima di tutto, e vi parlo di delle mie esperienze. Io sono stata sposata lei qual è la sua area di provenienza? Sente, io sono ungherese-israeliana. Quindi una complessità di frequentazioni, di incroci, di origini, quindi è interessante. Sì. Vi spiego, in Ungheria sono stata 17 anni sposata con un individuo che mi ha messo in mondo, mi ha fatto mettere in mondo i miei 5 bellissimi figli, ma a 17 anni sono stata violentata perché non ho mai sentito l'orgasmo. Con questo signore che l'ha fatto con questo suo marito ungherese? Sì. Quindi il suo marito ungherese, diciamo, ha copulato con lei al fine procreativo senza darle nessuna soddisfazione. Sì, esatto. E va bene. Poi sono andata via da Ungheria, poi ho conosciuto i miei 3 grandi amori diversi uno dall'altro. Esattamente, li classifichiamoli anche per nazionalità, così vediamo anche un po' le differenze. Cioè, un altro ebreo ungherese, ma conosciuto qui in Italia, che fra l'altro lui aveva una età abbastanza elevato, cioè era 9 anni più grande di me, che prima... Quindi come aveva... re Salomone, che a un certo punto sì. Si applicava... E lui mi diceva, io prima di incontrare te già pensavo che ero ipotente. Quindi lei ha risvegliato, come appunto venne data la bellissima ragazza re Salomone, Bezzabea mi sembra si chiamasse, per risvegliare appunto il torpore senile del sommo patriarca. Quindi abbiamo cominciato a fare, io chiamo amore perché già nella nostra religione è sacro a fare amore, un modo di fare vedere quanto vuoi bene e quanto... Vabbè, lo facevate, poi ognuno dice quello che vuole, vi dava gusto. Sì, ma lo facevamo abbastanza spesso, non adesso 2 volte, 3 volte la settimana con una persona che si riteneva prima di me ipotente. Vabbè, e poi l'ha lasciato, una volta poi che ha risolto il suo problema è passata oltre. Esatto, e poi è arrivato un grande amore da Lugano che faceva uno svizzero ogni settimana 1200 km per me. Ha avuto un attimo di batticuore. Sì, per 8 anni. Quindi come un orologio svizzero. Esatto. Ogni settimana. Ogni settimana. Cronometrico e preciso. Sì, esatto. E poi? Ha cominciato e poi ci siamo lasciati perché ha avuto un problema cardiaco. Una malattia abbastanza un tumore al cervello. Eh beh, ci poi, pensava troppo, lo so. Sì, sicuramente. Poi andiamo al prossimo. Prossimo è attuale, il mio compagno. Di che dov'è? È riminese. Riminese. Essendo da San Marino, sì. È riminese, sì, è una bellissima, facciamo. Credo che non posso dire facciamo spesso. Ma facciamo lungo, il tempo è durato. Ah, quindi non è molta frequenza, ma ha acquisito. Ma anche frequente, ma vogliamo stare molto e come amalgamarsi. Certo. Adesso lei con la sua esperienza, naturalmente avrà molto. Ma il prossimo invece quando arriverà? Io spero che non arriverà più perché ormai sono vecchia e voglio. Quanti anni ha? Voglio invecchiare con lui se possibile. Ma quanti anni ha lei? 53 anni. Vabbè, vecchia, è più giovane di me, guardi, non mi dia questa coltellata al cuore. Arrivederci, ci sentiamo domani. Vi lascio un grande mestizio e con grande disperazione. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828-1111. Melog va in replica questa sera. Alle 22. Melog 2.0.